De Rogero. Già va bene, già va bene. Già sta facendo bene, va. Thank you. ci ha salvato, eravamo natali su un altro canale, stavo facendo delle prove, infatti detto, volevamo chiedere delle informazioni a te, e vabbè, facciamo entrare un attimino, ciao Mario, comunque a Salvatore, così lo salutate. Ciao Natali, la massa cresce nel tuo dito, che non c'hai, che è la lappa che c'hai al dito. Ecco la lappa. Quindi ci possiamo spostare così non disturbiamo il questo, in quel canale dove avevamo l'altro giorno, andiamo. Natali. Vabbè, io adesso devo chiudere. Ti volevo solo chiedere un'informazione. Allora, abbiamo utilizzato lo split con Salvatore, ti spiego. E una cosa, un dubbio nostro è, solo con due persone si può utilizzare. Sì, te l'ho detto l'altra volta, perché se no uno ha diverso dovrebbe avere due apparecchi, no? Uno può ricevere e uno per trasmettere. Se vuole trasmettere con Salvatore deve usare una frequenza. Se vuole trasmettere con te deve usare un'altra, no? Perché uno riceve e l'altro trasmette. Aspetta un attimino, ma si può usare anche più di due persone pensandoci Natali, perché non mica trasmettete in contemporanea, mettiamo io sto ascoltando sul 27.015 questo canale qua e trasmetto sul canale 10, ascolto a voi questo canale e trasmetto nell'altro, però tanto parlate uno alla volta, per cui cosa succede? Succede che devo essere sintonizzato nel tuo canale di ricezione per potermi sentire tu, capito? In tre non si può usare, in due si può usare, ma in tre no. Aspetta un attimino, non si può usare, nel senso non possiamo parlare tutti e tre insieme, perché se io parlo però io posso sentire a due, a voi due contemporaneamente, se vi mettete sulla stessa frequenza di ricezione mia, a tutti e due vi posso sentire. Certo, tu per parlare con uno devi andare su una frequenza, per parlare con l'altro devi andare su un'altra frequenza, capito la cosa di casotto? Dovete avere due apparecchi pronti con due frequenze diverse. Ah vabbè, abbiamo fatto la prova, comunque funziona tutto perfettamente, Natali. Ci siamo spostati un pochettino e abbiamo visto che va tutto a posto. Vabbè, io adesso saluto a tutti perché sono entrato, ci sono già un po' in radio, perché adesso volevo mangiarmi qualcosa e mi guardo anche un pezzo della partita. Torniamo solo di quella perché Salvatore se ne interessa. Comunque vi saluto a tutti, Salvatore, Natalino, Mario e eventualmente tutti gli altri amici ascoltoni. Cuoretti da parte mia, aspetto il finale nel poi. Salvatore già ci sentiamo domani magari per quella roba là. Prendo io per i saluti a Roberto, va bene, vabbè. Ti lasciamo libero di andare a cena. Io a cena non parlerò perché qua è un macello. Io sono entrato adesso, ma sto facendo cosa che non mi funziona l'accordatore. Non riesco a farlo accordare. Dove se è successo qualche cosa, allora devo smontarne tutto. Ok. Riprende Salvatore per i saluti a Roberto e farai girare. E capa, sì, ciao Robe, vabbè ci sentiamo domani, adesso ti mando Mario, anche io faccio un paio di passaggi e poi anch'io me ne vado a mangiare, riprendi Mario. Capa, ciao Robe, buona carica, buon tutto, buon proseguimento di serata, ce lo sentiamo alle prossime. Capa, capa, beh, sabato, a mai del girevento dello Smitter. Ciao Roberto, buona carica, buon tutto alle prossime. Ehi, ciao Franchi, scusa un attimo Mario. Ehi, beh, che avevi la ragione dell'antenna, prima di farmi arrabbiare. Non c'è in che senso? Che sta uscendo male, avevi ragione io. Sto uscendo male? No, adesso sei ritornato tu, prima, quando ci quell'altro giorno passati. E io lo credo, ci avevo una bumera attaccata al terrazzino, io lo credo che uscivo un bacio e tutto messo male, e poi tutta la porta a porta di dove siete voi, capito? Da porta mi ascoltavate così, ma adesso che è di nuovo su, di getto, adesso fa sentire. No Mario, dico il giorno, ti ricordi quando c'era la discussione che io ti avevo detto che eri più basso del normale, ci avevi ancora la mantova e tutti dicevano no, è tutto a posto, ho detto guarda che non è così, e invece c'avevo ragione io, vi confermi? Papà, la mattina sono uscito giù, ho guardato l'antenna ed era coricato sull'antenna della TV, ma lo stazionario non ne avevo perché si è rotta la resina e il mallone delle stazionarie era ancora attaccato. Poi si continuate, ciao ciao a tutti, ciao Franchetto e a tutti quanti. Ehi, K, ciao Robè, alle migliori delle prossime linee, cambio, K, avanti, vari per i saluti. Ma io li ho salutati, tutte le persone, Robè, mi ha pagato, e allora l'ho salvato. Ma poi Mario, ti riuscirò benissimo, se ti ho dato col segnale che ti compete, bravo, bravo. Ti ha fatto bene, ah, tutto a posto, che è uguale agli altri, no? Rispetto alla mangio, la come si teme una cagata, io perché io sono mettono i radiali, c'è una placca di ferro che a me mi pare una cagata, quella lì tra un paio d'anni sai come sarà rugginosa, non è un'idea. Ho preso il rugginolani, ma no, penso che sono materiali indicati per reggere, per non prendere per gli agenti esterni, ma no, dai che vedrai che e lui a tutti i dini se tra 20 anni lo dovrà ricambierare, oh, ma. Ah beh, il capo è positivo, quello senza ombra di dubbio. Però non mi spiega fiducia anche, no, il sistema che hanno sul filo è splendido perché ci sono delle riduzioni che entrano una dentro l'altra, si va qui alla fine, si bloccano tutti assieme rispetto a quello della Mantova che entrava giusto giusto e poi gli basta appena io se non lo sbogli più. Allora quell'altro lì sul filo hanno migliorato tantissimo come progettazione, però sotto dove tu attacchi i radialini e dove c'è l'attacco del PL dell'antenna, se guardi c'è una plancia in ferro, un anilino e più che altro, quello lì tra un paio d'anni la stasera sono sicuro che se la mangia e non mi sfida tanta fiducia. Non te lo so dire, ma comunque, quando scendo la mia la vediamo se si è mangiata. Ok, dai, comunque me ne faccio anch'io in questi che vorrebbero della partita e faccio un saluto circolare, ci sentiamo con calma magari domani sera, ci sentiamo domani sera con calma. Ok, ciao Franchetto, ciao Mario, ciao Natalì, domani ti chiamo, ti prego e ti dico quale frequenza che stiamo operando. Ok, ciao a tutti. Ciao Salvatore, possibile, avanti vale per i saluti. Ciao Salvatore, buona carica e buon proseguimento serata, mi sa che volevo darti la partita e ci sentiamo alle prossime. E mi raccomando, le frequenze tenetelo bene segrete, così potete fare l'amore. Queste frequenze clandestine. Già, perché lì possiamo fare l'amore. Gappa, gappa. Oi, oi. Ma che pezzo che sta andando, crocro. Ma io ho visto quello che c'era fino alle 2:30, 3:15 là. C'era quando sono sceso dal tetto, poi non lo so. Con poco grazie, ma che ha avuto? No, che bello di proprio, no, si è rotto Ma cosa da quella Sardegna? Luca. Dal continente. Ciao Claudio. Ciao Mario, buonasera. Ah no, ma ci sono problemi al computer, non lo fa entrare. Ah, non fa entrare, sono i server qua, lo guardo. Sì, ma oggi. Ma buona cenata, ci sentiamo dopo al limite. Ciao Mario, ciao a tutti. Buona carica, come vi vuoi serata. Alla prossima, Iappa! Ciao, ciao, sei fortissimo qua, andiamo a mai l'antenna, ciao, ciao Luri. Come computer, vabbè, mi si aspetta di nuovo. Io volevo entrare ma non mi fa entrare, non lo so, vabbè, aspetterò a più tardi, adesso c'è, non puoi, riprovo, riprendi tra mai. Pacca, pacca, buona carica e buon tutto là, se coincide ce la risentiamo, ciao. Ciao, ciao, dopo vai Luca. E a dopo, ciao, buonasera. Avanti, ciao il Gus. Ciao Claudio, buon carica, buon tutto. Ciao Anto, scusa, non sapevo c'era che tu sono dato a tutti. Ciao Anto, riprendi, buona cena. Kappa, kappa. E così, dai, va bene, vale, dai, già stai scendo bene, dai. Me lo auguro. Me lo auguro che esca bene. Comunque domani mattina già... se ce la faccio è Vulcano alle 3:33, 3:34 sicuramente è carico e truccherò che cammina più piano e niente, però se mi alzo diciamo i verrati o Volcini lo voglio accompagnare per vedere se mi ascolta uguale se ne va con me. Kappa, poi entrerà anche Domenico domani mattina, vai. Forse Domenico domani sera, così. Beh, Domenico dovrebbe partire stasera, ma non l'abbiamo sentito. No, l'ho sentito io in verticale, dovrebbe partire domani pomeriggio, vai. E poi riportare l'autocarico, di norma fa due viaggi, ma io non l'ho sentito per niente, così che non lo so. Coppa, e così, e vabbè, domani mattina tutta la grande, allora così proviamo un po' le distanze. Chiacchieratina Mario e niente e poi vediamo come spara l'antenna nuova, dai. Capo del positivo, anche tu hai migliorato dal giorno alla notte, anche qui tu stai arrivando con un segnale ultimo, è una buona radio, dai. Capo di Roccia, già va bene. Tu sei 9:20, Radio 5, e così, va benissimo Mario, perfetto al 100. Aspetta un attimo, bene tu scendo di radio, sì, ha attaccato l'antenna diretta, ma gli è stato il dubbio che si muovono di ciabotto, bisogna andare tutto a posto. Realtà lì, tutto al 100. Ma sta facendo male il radio. Che abbassiamo un po', ecco, così va bene. Kappa la grande, ma che sei anche il commutatore, non mi è partito un caso controlla, controlla. Confermi Mario che sta facendo bene. Cappa, qui la bomba. Cappa, è pure Roger. Beh signori, vi lascio che me ne vado a mangiare. Mi sono incavolato anche troppo a stasera. Meglio così, Mario. certo, certo, è tutto per lui. E lo credo bene. Gatta gatta, manda bene, da. A parte Rogero. Adesso... Oh, comunque non ti ha tanto due antennini. Due? No, no. Cosa abbia fatto? Adesso posso anche andare a ascoltare... Però è piccolina, non è grande. È piccolina, piccolina, e l'ho messa sotto a quella della 27. Ma sono per ascolto? Già, cappa. Già va bene. Va bene, diciamo che se c'era stata l'altra proprio l'ha detto, era andata meglio, ma va bene anche così. Cappa, cappa. Va bene così, va bene. Già provato avete? No, perché Pomponio era aperta. Siccome è venuto tardi, poi tra una cosa e l'altra si è fatto le due e mezza, dovevo andare a casa sua a pranzare e se ne è scappato in fretta. Ma già mi ha detto che uno di questi giorni si piglia il tram, viene e mi controlla sia questo microfono che sto usando adesso a darle una pulitina con quello spray e niente, e poi vediamo le altre cosucce da collegare e da selezionare i microfoni. Anche io mi ringrazio, mi è una marea di questa cosa. E beh, li ho ordinato, hai Mario? Per terra sì, c'è avevo salone ragazzo che chiavi, chiavette, filo, filetti, quindi era proprio la roba in terra, la terra in mezzo ai piedi. Cappa di roccia, va bene, vera, va benissimo, va bene così. E adesso ci inventiamo qualcosa, davvero, ci inventiamo qualcosa. Sì, gli apparati accendono tutti, sempre, sì, perfetto. Va bene, adesso sarà caldo un po'. Adesso passo all'altro, dai. Cappa, dai, così ti dico la differenza da questo all'altro. Cappa, che burro c'è. Come va questo? Sargento? Eia. Come va questo? Va benissimo alla grande, Mario. È meglio o è peggio? No, è bella, bella lo stesso anche questa, è bella. Ma il segnale è uguale? Sì, sì, sì, uguale, uguale. Ma è il campo di positivo? Mi sembra più sincera questa, però, eh. Beh, questa qui è la radio seria. Questa non scherza. Cappa di Rogero, se la radio Siria non dovrebbe scherzare. E questo qui sospirando. Allora se gli sospiri gli fa. Chi è qua? Mi è sembrato qualcosa di Massimiliano, però non sono sicuro. Ma sono io, già sono io. Gappa, gappa, va bene, e beh, la gasolina fatta, tutto a posto? Sì, tutto a posto, per ordine, mi aspettavo che scenda a gente, la portone me la sto portando a casa. Nessuno sa cosa ha fatto il Milan, per caso. 1-1. Brava, vento, che ti vecchia. No, mi interessava per vedere se riuscivamo a superare l'Inter. 1-1. Ma ha rischiato anche di perdere le Milan, ha pareggiato, ma ha rischiato di perdere. Sì, vabbè, è sempre pareggiato. Vabbè. Cappa e Rogero. Cappa e Rogero. Rogero. Sì, due tacchettine più grande di Mario. Io lo so, io sono due tacchettine perché sono vicino a casa tua, più o meno. Capito? Però sono con aspetta. Con 3 e mezzo. Gappa. Ma sei sempre in quelle coordinate? Sì, io mi sto scendendo verso casa. Gappa. Già va bene. Avanti Mario. Cosa pretendi? Sei sotto casa tua, tu lo sai che con un vatto sotto casa tua ti fa andare lo smetto a fondo scala. È vero, Giulia. È una cosa, mi siete buone l'abbordante, non è sede a nessuno, perché ti chiude la propagazione. Non ce la fanno, Lascia perdere, perché che sono cose già provate. Sono da casa, vedo la portante e inizio la preparazione. Sì. Che? A te ti ascoltano, però tu non senti a nessuno, Così è. Paga. Non ho capito il discorso che avete fatto. Cos'è Massimilia? Ho detto che non ho capito il discorso che stavate facendo. Ho detto che se tu ti metti sotto casa sua con mezzo watt mi chiude la propagazione, anche non intende più a nessuno. Beh certo, se io mi metto sotto casa sua e schiaccio la portante, non le faccio sentire a nessuno, ma in trasmissione lui esce ovunque, a lui l'ascoltano, però in ricezione se io schiaccio la portante come lo avanti non le faccio ascoltare niente, e puoi mettere anche 3.000 avanti sotto. Capo di positivo. No, perché sono esperimenti che abbiamo già fatto, che uno può uscire anche con 1000 watt. Ti sentono tutti, però stai parlando con Muraki, no, tu non senti più a nessuno con 1000 watt sotto. Si conferma, Kappa e poi Roger, riprendi falca. Cava, va bene, veda. Beh, te l'ho già fatto questo scherzo, non te lo ricordi? Ehi. Stavo parlando con Roberto, io gli schiacciavo la portante, lui a Roberto non ascoltava. Ma senti, va bene. No, non sentivo nessuno perché io mettevo la portante e stavo zitto. Che figlia. Così è Mario. Gappa. Perché uno può essere forte quanto lui, ma sta mezzo vatto sotto una bella portante muta, ha finito di chiacchierare e che non intende bene a nessuno. Purtroppo è così. Eppure non dovrebbe essere una cosa così, perché io sto pensando la differenza che fa questo mezzo watt, cioè se buono sotto con mezzo watt chiude tutta la propagazione, non intende più nessuno. Non è vero, forse basta anche un portatile. Infatti basta anche un portatile, ti metti sotto, oppure se ne vuoi fare uno scherzo passi a dove c'è la portata del portatile, gli metti un elastico, glielo metti in mezzo a un bacione e lei già finito, nasce di testa e cosa zecchi? Sto che se ne vado un altro canale, se no in quello non parla più. Gappa. Cioè a parlare parla, non ascolta, capito? Falché, il problema è che a parlare tu magari, a parlare riesci a parlare con tutti, hai capito? Perché magari anche se io ti mando 200 watt sotto casa tua e tu esci con 5 watt con l'antenna, a te ti ascoltano, hai capito? Il problema è che non ricevi niente, hai capito? In pratica non senti qualche rumore, nulla. Tu ti intendi, che cosa intendi? Proprio nulla, non senti niente. La fumetta è la portata. Vuoi andare a mettere la portante? Sì. Allora, come se la mettiamo io? Capito, tu te ne vai, con un portatile, vedi? Con un portatile te ne vai, per esempio, sotto casa di Mario. Mario, un esempio, può sparare 3.000 volte e lo ascoltano tutti. Però se tu rimani nello stesso canale dove è Mario e schiacci la portante, quando stanno parlando per lui, schiacci la portante e lui lo ascolta, per il tuo. Ma è strano, come va tutta cioè, questa differenza? In che senso differenza? Che se ti mettono la portante sotto casa tu non puoi ricevere più. Come va questa differenza che tu puoi parlare, ti ascoltano gli altri, però tu non puoi ricevere? Come mai? Cazzo, come mai? Sotto casa tua se ti muovo la portante ti arriva a fondo scala, no? Come fai a sentire gli altri se io sono a fondo scala? Ah, ecco, per quello lì allora. Ma certo, no. Spiegaglielo tu, vai, io se no devo fare il disegnino. Ah, no, già capito. Cappa e poi Roger, vai. Siccome sono questi che neanche io il primo periodo che ho iniziato ci credevo, poi sono uscito con degli amici e mi hanno detto a voi vedere e dai vai lavorare, c'è detto gatto che tu e sì, con 50 avanti ha detto ti scegli pure un baracchino, non sono lascio. E invece niente, con un portatilino appoggiato nel cespuglio sotto casa del tipo in modo da non vederlo, in modo che se anche usciva a cercarlo non lo trovasse, cioè, ma stavamo facendo una prova così, perché io ero incredulo, e ci siamo spostati con la macchina. E noi dalla macchina ascoltavamo tutto. Beh, lui si è incavolato, ha fatto, però niente a lui lo sentivano, perché anche noi lo sentivamo dalla macchina, però lui non riusciva a sentire a nessuno. Cappaloccio, in effetti vuol dire che così. Luca, che fine ha fatto? Guarda qua, mi sto ascoltando, segnali. Ma fa anche tu davanti io, come fai a dire Massimiliano una cosa del genere? E ormai se ti vai dalla portante non ricevi più, ti chiude la comunicazione. Riesci a scavalcare a lui, sì, gli altri ti sentono, ma tu lo senti agli altri. Ma su quel canale solo però. Cosa vuoi su quel canale? Ma se ti vai dalla portante, se non è un baracchino solo, ti fa battimento, lo senti anche agli altri, capito? Ma in quel canale, però se mi sposto di canale ti sento normalmente. Se ti sposto di canale mi sposto anche io, sto martello, cazzo uno che viene sotto casa tua, a mettere la portante e mi sento di canale che hai, io. Vabbè, se mi messi che ovvio. Cioè, se tu stai parlando nel 5 ti mette la portata del 5, tu nel 5 non ti fa ascoltare più a nessuno. Se tu poi ti sposti nel 10 e lui si sposta nel 10 non ascolti più a nessuno, no? Perché è una cosa logica. Cavarocero, cappa di rogero, e noi spuntiamo l'antenna. Due più due sì. Benedetta la Luca! Lui che casino. E vabbè. Ma di volte sei io e poi sono andato via da farò io, non gli do più voglia. No, pesante pure, non ti passa più. Non che trovi qualcosa da fare. Cosa pesante, una cosa impegnativa. Cappa di positivo, Luca. Dimmi una cosa, ho cambiato apparato, come mi ascolti con questo? Che chiasso qua Mario, forte chiasso, fa passaggio, vai. Guarda, 1, 2, 3, prova. Sei 9,40, abbondante, ora del Super 5, ascolto benissimo. Non c'è problema. Forte e chiaro qua. Cappa. E cappa. Ma Massimiliano. Cappa. Io sono quasi addirittura all'arrivo, là vicino a casa, un chilometro per la mia maisonda. Com'è qua in questo buco? No, 9:10, radio a bomba, cappa, vai. Com'è 9:20, radio sempre a bomba. Luca, Ah, questo è il gemello del tuo, mi? Sì, se lo trovo non c'è più questo io. Vabbè, quella è una tua scelta. No, no. 44 mi prendo voi. Cosa prendo? Troppo troppo. Signore Miller, riprendo io e vi saluto così, dai. Così spegniamo tutte le trasmissioni qua. Salutone generale a tutti, Luca, Mario, Falchetto e a tutti la regia di Buco, dai. Buonanotte, poi 144, quando lo fate ce la riascoltiamo. Per me è QRT. Ehi, ciao Massimiliano. Buon QRT, dai, saluto a te, guerra familiare. E tutto le migliori, riprendi Mario per i saluti. Ciao Massimiliano, buon QRT, buon tutto, buona carica. Buon 144, quando lo fai e magari se coincide ci sentiamo domani mattina all'orario di partenza per lavoro. Grazie a tutti di nuovo. Ciao, ciao a te Luca, ci sentiamo. Allora, ciao, ciao, ciao. Massimiliano, buonanotte, buon 144 e ci sentiamo a domani. Come mai ti faccio un attimo presto, dai, ma ce ne sono a mezza. Sono a mezza a 7. Se ci sei, hai già il problema, dai, avanti, avanti un altro, boh, avanti qualche. Capo, io sono tanto. Massimiliano, niente. Cosa volevo dire? Cosa volevo fare? Niente, dai, riprendi Mario. Cosa volevo dire? L'importante è che sia ben fatta bene di tutto. I tirati invece li hai, Mario. Mario. Io. Mamma, sono una pallina, ragazza, perché sei veloce, da Kenny, tu. Allora, subito rilanciando a me. Dita, vai, tre cucine mi piglio un termoso. E non mi faccio arrivare in macchina nella cucina. sto parlando col bullo. Volete tirarti dai. Vabbè, vai, prendi il caffè, dai. Ne parliamo dopo, non ci avvicini il caffè, dai. Stavi dicendo dei tiranti? Stavo dicendo i tiranti messi? Sì, sì, messo tutto come era prima. Sembra che non sia successo niente. Siamo gli stessi tiranti, le stesse cose. Però fra vent'anni li devo cambiare. Ah, chiava De Roccia. Perché Popone mi ha detto, te non lo smuri il tirante. Aggiungi, c'è altri cosa ti credi mollendi, tutti rugginosi che siamo setti. Ebbene, tu sei rugginosi. Ma noi li abbiamo spostati, no? E abbiamo fatto scendere l'antenna piano piano. E niente, abbiamo sfilato il zancone vecchio dall'antenna, cioè dall'antenna dal palo, e ci abbiamo infilato l'altra. Prima l'abbiamo piazzata, tutto quanto, controllate le stazionarie, controllato il tutto, tutto a posto. Poi abbiamo sfilato lo zancone, il coso, boom, messa nel palo suo, stretto e via. Gamparoccia, comunque stazionare a posto così, tutto K. Sì, sì, niente stazionari, uno e uno. Va bene, vedalo, già va bene quando è così. Ma che stiamo dopo adesso, Mario? Cosa, Luca? Ho detto che stiamo dopo adesso. No, negativo, quel capo è nuovo, nuovo, c'è un altro 20 anni. Tanto, ma che è grosso, E allora, 213. Guarda come il mio, che carta? Cappa. Quanto che colore la carta? Dorata o color argento? No, quella dorata è. Allora, 213. Mario. 213 ho io, l'H100. 213 è quella che ho a casa color. Come si chiama? Color. No, argento. No, no, questa qui è dorata. E la RG8? No, RG8 ce n'è una battaglia qui. Ce la dovrò mettere se decido di tirarmi il discone per fare ascoltare. sottile? Sottile come troppo grosso, era il G8, perché era il G8 il coso, il la carta dorata, capite? Comunque la carta, questa qui è dorata, e Pompuglio ne gli ha tolto tutto il coso perché intanto stava staccando il piede della vecchia antenna, e come ne ha tolto un'altra vulcanizzante, si vede il punto dove è sbucciato per vedere se c'è da ucido e se è in buono stato, ed era ultimo. Infatti non abbiamo toccato nulla, le pietre né niente, è stato rimesso così com'era. Ma si conferma. Vabbè. E poi la conferma che sta arrivando come prima, no? O meglio. No, come prima, Mario, come prima. No, perché prima mi mancavano due radiali dall'antenna, adesso ce ne sono 8. No, va bene, come prima, ma perlomeno posso fare vicino a te, non si nota più di tanto. Devo andare un'altra mano di sì. Ah, cappa. Già da bene comunque, là. Cos'è tu? Via. Buscami un pezzettino, ma un pezzettino mi... un quadretto grande quanto un fazzoletto di cartone catramato, che l'antenna quando si è staccata ha fatto un buco nel cartone catramato. Non c'è problema, già te lo busco. Che così col bruciatore piccolino glielo riattacco, non voglio che entrasse acqua, capito? Perché già il tempo è quello che è, perché se no che era attaccata tutto è andato bene, poi quando si è sganciata ha fatto un bel buco, quanto era grosso il coso dell'antenna, ha fatto un buco nel cartone. Capo, già te lo porto, già te lo busto domani. Capo, no, anche andare a compararlo, ma un pezzo che faccio un boccaduro. Questo per tappare il buco, ahimè. Capo, non ti preoccupare, già te lo scendo io. Capo, di positivo. Non mi vale la pena comprare un rotolo di cassone, ma un fazzoletto di roba. Già te lo porto io. Una striscia, un metro, già va bene. Se mi può rubare i buchi. E infatti, cava. No, perché mi dispiace che ha fatto il buco. Se tu guardi quel buco, cavolo, perfetto, Tu pensi se invece che vuoi andare alla capisuglia, la fortuna è che abbiamo un tetto grande. E tu pensi se ne saliva e pensava qualcheduno là sopra. Il buco me l'aveva fatto, Capo d'acqua, ma se no se ne è piantato una tragata macchina. Aveva pigliato, senz'altro. Potevi trasmettere con la radio, Capo d'acqua. Ma per fortuna è andata come è andata, dai, già va bene. E infatti me la sto vedendo per quello, ma adesso devo vedere, là, perché giustamente mi devi essere assicurata la penna, ma è Zibuglia, mi fa danno, a chi asso, Infatti mi conviene mettersi un morsetto, è un tirante, ma non tirato, no. Un tirante che sia lento, in modo che mettendo le corna un domani dovesse cascare, rimane su quel tirante lì, capito? Il tirante. E appena tu dici di legare l'antenna con un pezzo di corda e lasciarglielo imbragato lì, in modo che se dovesse spezzare o cosa, non voli giù. So bravo, cioè lo attacchi lì, li metti un borsettino in quello con culoncino, gli attacchi lo spagolo e poi lo attacchi giù al terrazzo, in modo che la lasci lento, non è che lo devi tenere in tira, no, lo lasci lento, in modo che vinci la facciano andare l'antenna a destra, a sinistra, la macchia è a destra, che sia un po' lentuccio, e poi vedrai che se uno domani mettendo le corna per se cascare c'è quello spago che lo tiene, capito? Mario Manse, avanti Mario Manse per Natalino. Hai capito che non ci da se da me se non risultare. Ma la sagna messa per quello non ci ne scemo. È vero, vuoi un motivo si già. Ogni lo fa a Torino. Poi un anno fa è sempre una combina, cioè, sempre una senso è un anno fa. Sì, ci ha comprato la 25 e me ne sono salito qua. Perché intanto c'avevo anche roba da fare, quindi mi sono messo a fare quello che dovevo fare e adesso mi sono coricato. Aslinato, mi sono bucato e via. Guarda, nata lì, perché non l'ho accompagnato? E forse mi dire saluto, dormi qui, e così mi tiene le toccando. Ehi, cosa dormi qui, cosa dormi qui? Non vivo più i nomi, gli fa freddo i nomi. Freddo, vai allora, vai in casa tua, io avevo il riscaldamento, sono in affitto. E ci merenda. Ma tu non hai detto, lo riscaldo io. Già fatto, già detto, tutto quanto. Cazzo, io ci dovuto attaccare un po' su un riscaldamento in camera da letto, stasera. Ma che se non dici, oh, già guardato qua è tutto, non so che. Caspettina, sono voluto andare presto e allora a me anzi mi ha fatto piacere di pure, allora manco mi ha fatto il rompimento di cattedra di giù, che fosse vita rivenita. Ma pure! E allora, vuole essere vita rivenita, infatti mi sta sulle scatole, adesso domani secondo me tanto mi la mollo se mi vado a rompire, se mi rompi i cattedri. Che pittina! Ah, va! Ma non ha cosa da fare, se vado a zoppare un pensiero gli ha dato. E mi sono di vermini, se mi volevo ricordare mi sono di vermini, ma anche un rompimento di cattoli che astromi. E allora, se non è piacevole la cosa, ci ha fatto per dominazioni. E infatti, si lascia da una cosa che lascia da piacevole, sì, però Lisa per un pedricato e quindi meglio che si cerchi a luglio. Cappa cappa, che sta fatto i figli, dico sì, ma no sì, ne poteva rimanere, no. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Ah, va bene, bella, comunque, non è quello che è importante, l'importante è partecipare, tu. Vero, forte? Già lo sia. Già lo credo, vabbè, ma se non inizia a essere pesante, anche io sono del parere che la strada è ampia, libera e di andare dove vuole. E infatti, la cosa deve essere reciproca, capito? Ti devi dare una mano, vite, io ho dovuto cucinare, tutto io ho dovuto fare. Oggi, capito? E lui cazzo busarda, hai capito bene bene. E quindi, sicuramente chi sa non mandare, allora me la giambo, me ne dice un'altra, più giovane e più bella. Si conferma, no, cade così, che la femmina si ammandronisce così, falla camminare il più presto possibile, ma poi vedi tu Natalie, sei vaccinato, vedi tu. E infatti proprio perché vedo io già vedo bene, c'ho anche gli occhiali. Appunto. Così funziona, e così è. Tu non ti mantieni se nessuno mi decidere. Ah, se no puoi ancora insuvarà. Poi dopo il insuvarà, è diverso. E infatti, molto bene, quando si insuvarà, insuvarà il giovè. E mi rovi la piazza di Rio. Se non la piazza di Rio, no, tanto è inutile. Per stare bisticciando, a me non mi piace bisticciare, lo sai, no? Ma diciamo, sono fatto io. Mi piace andare da me d'accordo. Quando io sì, allora tutto andrà bene. Ma chi c'è troppo visiata? E allora, già che ti dice subito un'assa, almeno, e anche se ti fai un voglio di via. E domani mi porto un voglio di via. che gli dici, se mi devo quello qua, non lo sai tu, se faccio la ruina a vero, se no, se siamo andati la cosa da me, la mano, se no, va bui. Sicuramente non è su di cui io va, parmi su una ragione, Maria, tra l'altro, che non sono così stesso da sposare. Gappa. Io sono del parere, un piatto che va, l'altro che viene. Se da voi non è così, hai una strada è ampia. Arrivederci, buongiorno, buonasera. È stato bello, quello che è stato bello, però ti devo lasciare. Tutto qua. E infatti, no, se non ti calma la persona, no, lui non aspettare tanto, perché se no lui faccia venire i guai. Invece, a tanto quanto ti bisogna fare di cose, quando vedi non lo metti davanti e sai giù. Infatti Natale, si conferma, Natale, si conferma. No, quando a me una persona non mi va al genio, non c'è nulla a fare, è più forte di me, non sono di quelli, io ci pareggio, un preso, sono di quelli che la persona deve essere un medico io, se no, manco da ricatto. Ah Mario, ti volevo chiedere un interrogativo. Dimmi. Se avevi trovato le misure che servivano a me di quel palo. Allora, a me mi hanno detto che sì, comunque, non è che innestano uno dentro l'altro, è che vogliono le mani curti. Che mi hanno detto che già si trovano. E adesso devo sentire come sono libero di andare o da Oppo o da qualche un altro e vedere se li trovo, perché se li trovo pigliare queste due mani corte non costa nulla, è vero. E poi quando sarà il momento facciamo il tutto e se vanno bene bisogna vedere se ci andiamo abbastanza d'accordo, dai. Se no, attendo di 18 metri. Ma se non entrano uno dentro l'altro, non va bene, no Mario? No, uno dentro l'altro già entrano. Poi entrano e c'è differenza, capito? Io gli volevo mettere le mani corti. Uno dentro l'altro entra solo da un pollice e mezzo, un pollice e un quarto. E poi sempre gli devi mettere un aspettone, come ho fatto io con la mia, da un pollice. E se avevi ragione tu, lo stadio finale da un pollice. Capito? Se no non entra nel palo dell'antenna, che è dove c'è, diciamo, i radiali. E il pollice con la manicotto si può mettere, questo pollice qua stai dicendo tu? Sì, il manicotto si mette, va bene, non succede nulla. E ma bisogna dire se si non ti esce, ma il cotto, un preso hai Mario, cosa ti voglio dire? Quando ti... tanto a me mi interessa salire due pezzi di coso, se esce i 12 va bene. E poi mi metto un aspettone da un metro per entrare il palo dell'antenna, che poi costringi con quei quattro bulloncini che ci sono nell'antenna stesso. E infatti, cosa hai detto? Un pollice e un quarto e un pollice e mezzo, così è? E là, sotto, dicono un pollice e mezzo, poi mi metto il pollice e un quarto, e poi quello da un pollice rimane un pochettino più stretto, ma no, non le fa niente, quello lì si può fare un buco passante, mi si mette un bullone perché sapere com'è. Tu non ti preoccupare, appena che mi posso muovere, perché adesso sono impegnato con questi cantini. Però appena che mi posso muovere, guardo, piglio questi due manicotti e tu mi ce li hai, sì. No, e tu mi compromuovi. E da parlare, si può andare da Marcello e si comprano due tubi degli insegnanti di quelle d'acqua, si pigliano, si mettono, si abitano uno con l'altro, si mettono una bella corda in punta, una volta che gli è tirato l'antenna, tiriamo e lui si mette a posto da sola. Facciamo così, cosa vuol dire? L'importante è che uno entri uno dentro l'altro, così almeno, ma non c'è neanche bisogno, se entra uno dentro l'altro, gli attacca le staffe, io, una volta sono bloccati dalle staffe, ci attacco l'antenna sopra e poi la tiro su. Non ti preoccupare, già in qualche modo già la facciamo. Ma intanto adesso sta anche iniziando a fare le belle giornate. Così si può stare, si sta bene anche fuori all'aria aperta, tutta la mattinata tranquillo al sole, fai il lavoro e poi provi a sparare. E mi comprerò anche l'antenna nuova, quella tuba è troppo vecchia, cazzo, meglio mi aiutare a dare fuochi, io subisci meglio. Ma la compro nuova, mi compro la 5 invece che la turbo. Guarda, secondo il mio punto di vista, tu puoi assicurare che mi sbaglio. Ma come ho visto la turbo, come è fatta? Ma come ho visto la 5, sono sicuro che la 5 le passi tutti, non ce n'è. Anche perché il pavimento della 5 è in alluminio, mentre che quello della turbo è in lamiera e poi il rivestito è con un pezzo di plastica ed è un attacco radiale sotto che c'è il DL, c'è un lamierino che però non mi ispira tanta fiducia, perché ho paura che come passano un paio d'anni con le intemperie che ci sono nell'aria mette subito la ruggine e la resa non sarà più quella dichiarata, sarà un'altra. Secondo me mettendo la 5 vai alla grande, vai a Marcio e si sattro. E infatti perché la turbo ce l'ho io già e lo so com'è, se ruggisce tutto il pezzo di sotto io l'ho dovuto verniciare, mi ha giunto. Guarda, se vedi come l'ho fatta, però è troppo vicino ai Sant'Enna, ma mi raccavo e mi pongo la 5, mi metto. E così almeno cambio i tubi e l'altro quanto voglio io. Tanto il cavo già ce l'ho, nuovo. Quella turbo al limite me la scendo e vediamo a vedere cosa riesco a fare, magari mi faccio una multibanda. Ma voi lo vedi tu, no, a me la verità io non l'avevo mai vista, però non mi stile niente fiducia questa turba, perché sono sicuro che dopo un paio d'anni sarà tutto l'altro grande curioso. Speriamo bene. Questo mi scendono i radiali subito perché sono in alluminio, capito? Cazzo, me ne è già sceso uno, fatelo un conto. E la mia voce di tutti, me. E infatti la mia gau. E lui al suo bio cosa va? Al limite se mi faccio un'altra antenna per diverse. Capitato mi serve. Sì, vabbè. Ti serve il relativo, tu che sei quel di toro bello, che sembra la scaletta per i cioccolini. Comunque un bel tocca. Mi devo buscare un paio all'inizio, non si sente nulla, e lei rimane bella, appesa, tranquilla e pacifica. E infatti, io mi pido a 5, perché la tubo ce l'ho e so come, mi ha fatto diventare macca a me, guarda. E lei l'ha pagata, ma io, questa qui è un peccato perché come è caduta, che lo stilo dell'antenna non c'aveva niente, si è bloccato il testo quando è volata la seconda volta, che si è tagliato un pezzettino della punta, a vero, se no tutto lo stilo era bello, nuovo, nuovo, c'era molto ossido nelle aggiunture. Aspetta, oh, ma vabbè, dice, voglio andare ora a Mara, che lui che ci ha preso pure Mara, oppure anche da Capolino. Tanto voi ci seguiamo tutti quanti. E se no, per altri come, mi stai capendo? All'altro in come, con il nostro nuovo che hanno aperto, che era l'apertura per fare il bumbo, ci ha preso i buoni. Entrare lì e vedere un po'. Ehi, ma sai, dove è questo Mara? Che così va a tutte e tre, Mario? Tu dovresti venire tu a pigliarli, perché cazzo, senza il mio giro, ma ci posso appicciare i simi. Tu, quello lì, non ti preoccupare, Mara è... E cosa? Mi muore tre giorni sulla strada del Bambino e vengo verso Sassari. Tu arrivi giù, tu mi porti a cielo nella trentena, fai che da tutto e ripigli per Sassari o per Cagliari, perché lì c'è scritto Cagliari, scendi nuovamente sotto e arrivi la buona tre giorni e entri. E glielo chiedo, un pollice e mezzo, un pollice e un quarto. Cappa, lo spostamerò un po' di tempo, mi tocca un po' scolino. Intanto quello lì me lo mettiamo un metro e basta. Infatti, questo è tanto battimi d'antenna, mi. O per usare il mio cazzo, rimanta un po' di arbol, c'è un quaggio. Oppure, le buone su manicotto, sei sicuro, come ti... Vedi un documento esce, manicotto. E il manicotto è in ghisa, non è di ferro. Sono sbagliato, ma pensi, come te lo dubbo. E vabbè, ma bisogna vedere com'è che si innesta, hai capito là? Abitatura, se un manicotto è abitatura, no? Perché c'è il filetto da una parte e il filetto dall'altra. Quello metti, gli metti un pochettino di grasso, nella battuta lo vulcanizzi e lui è a posto, quello è una vita. Se non si marcisce la filettatura è quello il discorso. Ma basta a marcisce la filettatura. Se è sbagliato, poi una volta che è arrestato gli metto appena appena di grasso. Non è morto. E lui è a posto e non marcisce. Perché l'acqua non entra. E cara gara. Poi entra mala sorte che l'antenna scarica l'acqua. C'è il tubo per scaricare il coso per scaricare l'acqua l'antenna. E beh, però non marcisce perché non mi tocca appunto i ripari. Andrà bene mele, vediamo, tanto me lo devo vernicciare anche. Allora, vernicci il tubo? Prima di ghiacciarlo sì, oltre che il zingato con la vernice sopra è anche meglio, penso. Ma io ho visto che il mio si è fatto bianco. Però se ne è venuto non ne ho visto manco un filino. E vabbè, io siccome un bianco lo faccio rosso e bianco, capito? Ah, ho capito, va. Quindi sono 12 metri. Ah, 43 metri. Devi rimettere il mezzo per entrare nella testa. E vabbè. Ragazza. Mario, tu cosa passare qua, si sa, no. Ma non sentite il sacco lungo da fare. A Mario. Allora, compresso, ma basta Mario. Ma tu una scalata non è salito. No, se va bene, Luca. Ammazza. Ti ho 10 watt. 80. Guarda ora. Facci dopo un basso, Mario, non è troppo. Importante, un lato 50, 40. Guarda, se va meglio. Tu hai dato a cosa? È troppo alto, è sacro. Poco a poco aumenta. Sei sacro. Vai, vai, è importante. Chi c'è la portante? 50 e poi cosa hai fatto? Nulla. No, non è radio. Mario, metti la portante a 10 watt e lo lasci così. Quando parli solo. Oh, abbaccia Mario, no. C'è una cosa che non guardi allora, per forza. Perché prima andavi bene, di 9.40, bello, poi boom, sacro. E forse era scaldato. Ma metti a 10 watt, mettilo Mario, l'importante. Senza parlare, metti a 10 watt, poi il panno già sale da solo. Quante volte entra, si è ascoltata la capsula, controlla, vedere. c'è una cosa che non fa. Conosci benissimo. E adesso guarda un po'. No, non è basso. Confermi che è basso, Mario. È basso, distorto, c'è pure l'alternata. Non c'è la mia casa. Guarda un po'. No, no, c'è sempre l'altari. C'è sempre questa. Alternata. Sì, in basso, mi faccio, non è forte, come la prima. E cosa vuoi dire che hai? L'alternata è più forte. Più che voci. Pappa. Buono Mario. Pappa. Oh, chi è? Allora, Luca. Allora, qua siamo. Ciao.